Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Che ti prende? Hai un'area scorbutica, sei di nuovo a dieta. Tesoro, ti ricordi di lui? Non ci vediamo da tanto tempo. Sono scorbutico, Jack. E ho fatto una lauta colazione stamattina. Tu mi fai venire l'ulcera, me la sento. È come se avessi ingoiato la batteria di una macchina. Perché non hai trovato due fonti? Ti ricordi la storia del cardinale O'Brien? E tu ti ricordi che volevano licenziarmi? Ma se per poco non ci vinceva il premio Pulitzer. Chi non conosce almeno una persona che ha questo potere, sarà un modo di dire, ma non a caso viene proprio tirata in ballo l'ulcera, non il ginocchio ad esempio, il cuore o il cervello. Ci sono persone o situazioni che producono lo stesso effetto di un pugno nello stomaco. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Si parla di una cosa interessante, perché quando ci arrabbiamo, quando qualcuno ci ferisce, diciamo ci viene l'ulcera, oppure ho avuto il pugno nello stomaco, un pugno in mezzo allo stomaco. La verità è che lo stomaco è uno degli organi più complessi ed è molto innervato, ma la cosa ancora più interessante è che nel nostro corpo esiste una relazione diretta tra il sistema endocrino, cioè quello che produce gli ormoni, il sistema immunitario, quello che ci protegge dagli insulti, dalle infezioni, e il sistema nervoso. Lavorano insieme producendo dei mediatori chimici, degli ormoni che rispondono allo stress, alla paura, all'ansia, alla felicità. Quindi il sistema nervoso, lavorando insieme al sistema ormonale, regola anche la funzione di organi così innervati come lo stomaco. Volevo aggiungere una cosa interessantissima: esiste una cosa che si chiama biologia olistica. Ora, non bisogna avere un senso di rifiuto di fronte alla parola olistica, perché sapete chi affermava che la biologia olistica fosse la verità, perché parlava dell'interazione tra nervi e sistema ormonale? Rita Levi Montalcini. Un nome? Un nome è una garanzia. Sì, è proprio lei. Lei sosteneva che il suo fattore di crescita nervoso, cioè ciò che aveva scoperto e per cui ha preso il Nobel, fosse in grado di interagire con il sistema ormonale, quindi gli ormoni fossero in grado in qualche modo di influenzare il sistema nervoso. Lo dice proprio lei, si può vedere benissimo anche facendo qualche ricerca internet, racconta di essere fiera di avere scoperto questo fattore e quindi questa interazione. Grazie alla dottoressa Luini per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie, buongiorno. È da diverso tempo che io, dopo mangiato, ho gli acidi, i bruciori di stomaco e anche qualche rotino. Tante cure ho fatto, sa, ma non mi hanno fatto bene nessuna. Sì, ma io non sono dottoressa. È lo stesso. Chissà che non possa fare qualche cosa anche lei, anche se non è un dottore. Io sono ingegnere. Fa lo stesso. Tante volte anche il parere di un ignorante va bene. Con questo male, con questo bruciolino di stomaco, non ho volontà di far niente. Dopo che ho mangiato, me ne sto lì come una mummia. Potersi lamentare con qualcuno a volte aiuta proprio a togliersi un peso dallo stomaco, ci si sente un po' più sollevati. Ma come si dice, se il problema persiste, meglio fare due chiacchiere con il proprio medico, che immagino avrà un bel da fare, dato che a lamentarsi del proprio stomaco sono circa 25 milioni di italiani. Tanti sono, secondo i dati, le persone che fanno i conti con gastrite, ulcera, cattiva digestione. Qua in studio con me ho il grande, e sottolineo grande, piacere di avere il professor Dino Vaira, gastroenterologo, professore di medicina interna dell'Alma Mater di Bologna e Policlinico Sant'Orsola. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma che bellezza! Allora, professore, lo stomaco spesso si lamenta, ma dobbiamo dire che lo fa con un certo stile, perché non è monotono. Dolore, bruciore, senso di pesantezza, sono tutti modi diversi con cui il nostro stomaco esprime il suo malessere o il suo disappunto nei confronti delle nostre scelte alimentari, e non riferendomi alle persone, ad esempio. Ma anche rispetto alle nostre scelte di vita. Quindi non solo alimentare ma anche di vita. Lui non è monotono, sì, dice bene Nicoletta, perché a volte c'è la pancia gonfia, a volte c'è il bruciore, a volte c'è il reflusso, a volte c'è questa meravigliosa di cui parlava la nostra annunciatrice prima, questa sonnolenza postprandiale. Noi mangiamo e dopo, subito dopo mangiato, abbiamo bisogno assolutamente di fare la cosiddetta pennichella. Questo è dovuto al fatto che lo stomaco non funziona, quindi non svuota bene, quindi succhia, se mi passa il termine, in realtà il termine scientifico è sequestro splanchico, sangue dal cervello, quindi territori nobili e arti inferiori, e quindi crea questa reale cattiva digestione, quindi questa sonnolenza che in realtà non è altro che un meccanismo di compenso, cioè lo stomaco tenta di risollevarsi e risuscitarsi con questa nostra pennichella pomeridiana. 800 24 00 24 se volete intervenire, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Diciamo la verità, professore, ciascuno di noi ha un rimedio, un consiglio da dare, una ricetta da seguire o da suggerire, forse troppe. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il nostro dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori e un carissimo saluto a Dino Vaira. Ricambio con tutto il cuore. Dottor, allora, sì, c'è chi prova col digiuno, chi con la tisana, chi elimina il caffè, chi prende il bicarbonato, chi la patata, il riso bianco, chi invece va giù con i farmaci, tempi duri per stomaci in fiamme. Sicuramente sì, tempi duri per stomaci in fiamme, ma soprattutto stomaci che vanno in fiamme anche per colpa nostra, perché certo, in realtà tante volte assumiamo dei farmaci senza le necessarie precauzioni. Quante volte per un mal di testa prendiamo un farmaco da banco perché giustamente curarlo è corretto, ma lo prendiamo senza la necessaria precauzione. Tutti gli antinfiammatori e gli antidolorifici devono essere presi a stomaco pieno, e allora lo stomaco, come si dice, brontola, perché in realtà si fa presente, fa sapere che c'è e ci dice che dobbiamo stare accorti ad alcune cose. E poi i rimedi, tante volte, ecco, citavi dei rimedi empirici, rimedi della nonna, ahimè sono stati completamente superati tutti questi rimedi, perché è vero che una tisana calda per digerire non fa male, possiamo utilizzarla, ma attenzione, se questa cattiva digestione si presenta un po' più spesso è segnale che qualcosa non funziona, insomma lo stomaco fa sapere che c'è e ci manda un grido di aiuto per dargli una mano. Dottor Gargiulo, grazie. Quindi attenzione, come dicevamo prima, lamentarsi fa bene, spesso possiamo lamentarci anche con il nostro marito, il nostro amico, il nostro collega, ma se il problema persiste facciamo due chiacchiere con il nostro medico. Grazie dottor Gargiulo, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Ho capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono dei contatti, facciamo magari una telefonata. Se me lo dicevi prima, professor Vaira, molto spesso la soluzione è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Uno stomaco infiammato potrebbe essere uno stomaco abitato. Molto bene Nicoletta, intanto volevo dire che tutti noi sogniamo di avere il grande Gargiulo come medico di base, perché è veramente uno dei prototipi del vero medico di base. Che voglio dire col medico di base? Perché uno deve parlare col medico di base, è il medico di base che nel 95% lo fa, quindi pochissimi non lo fanno, quindi grandi medici di base devono ascoltare prima di dare le medicine. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori. Invece di andare dal medico per prendere la medicina, devono andare dal dottore per dire quali sono i propri disturbi, e il dottore deve assolutamente ascoltare. Grazie all'ascolto si riesce a identificare che tipo di patologia. Cosa voglio dire? Il paziente va dal dottore e gli dice: dottore, digerisco male. Il dottore deve assolutamente vedere se questo stomaco è abitato, invece di dargli una medicina. Quindi in pratica deve fare un banalissimo test non invasivo per vedere se in questo stomaco c'è questo famoso batterio, perché cambia radicalmente la terapia e cambia la gestione e cambia, mi perdoni, con questo concludo, la qualità di vita del nostro paziente e quindi anche nostra. È un batterio pericoloso? È un batterio molto pericoloso, un cancerogeno di classe 1, che vuol dire è alla stessa stregua del fumo per il cancro del polmone. Quindi noi nel momento in cui blocchiamo il fumo, e mi dispiace per chi fuma, ma è così, nel momento in cui noi blocchiamo il fumo abbiamo una caduta verticale dell'incidenza del cancro del polmone. Nel momento in cui tiriamo via l'elicobatter dallo stomaco abbiamo una quasi garanzia che il nostro stomaco non svilupperà mai questo bruttissimo male. Come spesso accade, questa grande scoperta avvenne per caso e lei, professor Vaira, può raccontarcela con dovizia di particolari, perché i due scopritori dell'Helicobacter pylori li ha frequentati a lungo e quindi può parlare di questa scoperta anche un po', come si dice, da dietro alle quinte e darci un quadro inedito dei due protagonisti. La risposta è sì, infatti ho collaborato con loro quando ero a Londra nell'86 fino al 90, ma alla base c'è sempre un grandissimo scienziato, nella fattispecie un anatomopatologo, cioè chi guarda i vetrini a microscopio. Quindi, come dire, le fortune arrivano a chi ha studiato per 50 anni, è difficilissimo che la fortuna arrivi a chi ha studiato per 6 mesi. Quindi in realtà l'intuizione di questo anatomopatologo, però l'intuizione da solo non sarebbe servita se il mio amico Barry Marshall non si fosse letteralmente dimenticato queste piastre nel termostato e quindi avesse preferito fare del surf invece che fare il grande ricercatore. Ancora una volta la brillantezza di quest'altro professore, cioè quello che guarda al microscopio, nel riconoscere in pratica questi batteri e non aver buttato questa che volgarmente si chiama piastra, e quindi grazie a questo, tra virgolette, errore, dimenticanza, noi finalmente abbiamo letteralmente debellato l'ulcero duodenale. Volevo solo ricordarle, Nicoletta, che è difficilissimo che gente come me o come Gargiulo prenda un Nobel. Cosa voglio dire? I Nobel lo prendono chi fa ricerca di base, lo fa Watson e Crick, per esempio, perché ha scoperto il DNA. E in 100 anni è la prima volta che dei dottori, cioè gente che visita un paziente, prendono un premio Nobel, e questo lo si dà solo se cambia la gestione di una malattia. È il caso dell'ulcero. Abbiamo Rosaria e poi subito dopo Stefano. Rosaria, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, chiamo da Sovico, complimenti per la trasmissione. Senta, io chiamo perché il mio stomaco è particolarmente delicato, nel senso che è come se fosse lo stomaco di un bambino di 3 anni. Mi sente? Sì, la sentiamo bene. Sì, ok, se mangio qualcosa di un po' più elaborato, qualcosa, un cibo che contiene, non so, il peperone, il porro, la cipolla, l'aglio, il mio stomaco va completamente in crisi e la mia digestione, che di regola comunque è lunghissima, praticamente si blocca, sto proprio male. Quindi io mangio sempre sano ed equilibrato, evitando tutti quei cibi che possono portare ad avere una digestione, certo, un po' ancora più lunga. Ma mi chiedo, è normale che sia così o che ci siano persone proprio costruite così? Professor Vaira. Sicuramente la nostra ascoltatrice è sensibile anche come persona, quindi non solo ha lo stomaco delicato, ma sicuramente ha anche una personalità molto sensibile. La cosa che deve fare assolutamente è un test non invasivo per vedere se nel suo stomaco c'è questo batterio. Per test non invasivi intendiamo un test sul respiro, che adesso si può fare anche in farmacia. Quindi lei va dal suo medico della mutua, le prescrive il test sul respiro, lei va in farmacia, lo acquista con veramente pochi spiccioli e lo può far fare comodamente a casa sua. Nel momento in cui c'è questo batterio lo tira via, nel momento in cui non c'è, il consiglio che le do è di fare assolutamente, per esempio, un altro test non invasivo, che è un'ecografia dell'addome superiore. Andiamo a Stefano, che ci chiama da Mantova. Buongiorno. 800 24 00 24, se volete intervenire con al nostro programma. Stefano. Buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, io ho avuto un inizio di ulcera, gastrite, un'ernia iatale, e ho fatto 2 gastroscopie. La prima, e ho scoperto questa cosa. La seconda mi hanno detto che ero guarito. Ho sempre questo problema di bruciore di stomaco, sto facendo una cura con delle pasticche, non ho l'ecobatteri, perché abbiamo riscontrato con... Non c'è, questo se l'è risparmiato, no. Stefano? Se no, però, mi dica. Però il problema è che io ho sempre questo bruciore di stomaco e non so cosa farci. La dottoressa vuole di rifare un'altra... Ah, ho fatto anche un'ecografia con... un liquido bianco da ingoiare. Stefano, vedere... professore, ci racconta. Grazie Stefano. Ha fatto e non ha visto nulla. Beh, Stefano deve assolutamente fare un testo respiro, perché vedete, il testo respiro è molto più accurato addirittura della gastroscopia. Cioè, quando io vedo con la mia telecamerina lo stomaco e con un pizzicotto prendo un pezzettino di stomaco, può addirittura essere che in quel pezzettino di stomaco non ci sia l'ericobatte. In realtà, quindi, il test in assoluto più affidabile è questo test sul respiro. Però attenzione, bisogna farlo quando non si prendono antibiotici o le famose pillole che abbassano l'acidità, i famosi omeprazoli. Professor Vaira, solamente l'Helicobacter si cerca nei casi in cui il nostro stomaco non funziona bene, avvertiamo il bruciore, oppure ci sono anche altri disturbi che sembra non avere nulla a che fare con lo stomaco, ma che potrebbero invece tradire la presenza di Helicobacter? Per esempio la cefalea, il mal di testa, per esempio la psoriasi. Per esempio anche la stessa infertilità, guardi Nicoletta, c'è stato uno studio recente in cui delle donne non avevano la gioia di diventare mamme e per esempio albergavano nel loro stomaco questo batterio. Quindi in realtà è una spia, perché in realtà questa è una banalissima infezione, come dire, come la cistite, come l'ascesso al dente, solo che la cistite e l'ascesso ci fa male e andiamo di corsa dal dottore. L'Helicobacter, visto che noi lo becchiamo in tenera età, verso i 2-3 anni, tra virgolette ci coabitiamo, un pochino come il veleno di Cleopatra. E il motivo per cui, nonostante 25 di milioni di italiani abbiano questo batterio, solo 10, si fa per dire, solo 10 milioni soffrono di stomaco e altri 15 milioni invece mangiano senza nessun tipo di problema. Ma non tutti i batteri ci danno del filo da torcere, ci sono anche dei batteri che lavorano per noi, amici della nostra salute, batteri buoni, i probiotici, lo dice il nome stesso, Probios. In linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Morelli, preside della Facoltà di Agraria all'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh, probiotici sono i moderni fermenti lattici, insomma sono parenti, avete cambiato il nome, che cosa è successo? Beh, è cambiato che se ne sa un po' di più e quindi si è fatta un po' di distinzione, perché fermenti lattici era una vecchia denominazione che andava a identificare tutti quei batteri buoni che vengono utilizzati per fare gli alimenti, non so, i formaggi, lo yogurt, eccetera, e anche quei batteri che venivano utilizzati invece per raggiungere l'intestino e avere delle attività positive per la salute. A questo punto però si è deciso di dividere, perché i batteri utilizzati per fare gli alimenti mantengono il loro nome di fermenti lattici. Sì. I batteri, magari anche compresi dentro agli alimenti, aggiunti o spontaneamente presenti, che invece vengono utilizzati per dare un beneficio al consumatore, li chiamiamo probiotici, anche un po' in antitesi l'antibiotico, no? Questi sono a favore della vita. A favore della vita. Probiotici negli alimenti, negli integratori, nei farmaci, come sceglierli? Allora, sì, in Italia esistono tre tipologie di prodotti. I farmaci, che sono farmaci da autoprescrizione, quindi uno può comprarli in farmacia e che vengono consigliati quando c'è uno stato patologico, una diarrea, una gastroenterite, eccetera, eccetera. Poi lì il mitico bugiardino, il fogliettino, no, che accompagna questi medicinali di rara indicazione. Poi invece entriamo nel settore alimentare e troviamo dei batteri o di solito in prodotti a base di latte, anche se esistono dei prodotti a base carciofi e olive che contengono questi prodotti, ma di solito sono a base latte, quindi derivati dello yogurt o fratelli dello yogurt, oppure nelle bustine, nelle compresse come integratori. L'uso è diverso, a volte i ceppi possono essere, i batteri possono essere gli stessi, però l'uso è diverso. L'alimento è inteso come un consumo quotidiano su lungo periodo e quindi la carica batterica che è presente, quindi la quantità di batteri, non è di solito elevatissima. Invece l'integratore è pensato per un consumo in un periodo limitato di tempo e che deve far fronte o prevenire un'alterazione della flora intestinale, cioè quando si pensa che… Al bisogno, insomma. Ha bisogno, esatto, mentre l'alimento dovrebbe essere un compagno quotidiano. Professor Morelli, abbiamo parlato di yogurt, bevanda, alimento, dessert. Bella domanda, qui io ho appena finito di fare esami e devo dire che avrei messo in imbarazzo anche i miei studenti con questa domanda, tutte e tre, nel senso che allora, lo yogurt è sicuramente un alimento perché è un derivato del latte, ha un profilo proteico molto buono ed è anche senza pericolo per chi è intollerante al lattosio. Sì. È un dessert perché gli italiani preferiscono gli yogurt che contengono frutta piuttosto degli yogurt naturali. Oltretutto l'industria in questi ultimi, nell'ultimo decennio ha abbassato l'acidità dello yogurt, è meno acido, quindi è più gradevole. Nasce come bevanda nel Medio Oriente, era un prodotto estivo che faceva bene perché contrastava le diarree, so, che sono sempre un po' legate all'estate, no? Contaminazione degli ambienti, eccetera. E essendo acidulo, levava la sete. Vede, qua abbiamo il professor Vaira, il professor Morelli lo promuoviamo. Se fosse uno studente sarebbe promosso a questa domanda. Lode. Bravo, lode. Professor Morelli, lei ha preso 30 lode. Sono contentissimo. Contiene molti batteri vivi e lo yogurt. Cosa dobbiamo leggere in etichetta? Allora, lo yogurt in Italia è molto strettamente regolamentato, più che in altri paesi europei, questo i consumatori italiani devono essere felici, contiene tantissimi batteri vivi, sono centinaia di milioni per grammo, quindi va benissimo. Grazie professor Morelli, buona giornata. Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. Essere e benessere. Uno strappo ogni tanto me lo concedo, a chi non è mai successo? Alla sera, magari esci dal cinema, sei ancora sveglio, hai un buco allo stomaco, e allora è normale, vai al baracchino, lì, al parco, da una parte un metronote, dall'altra un travestito, e lì in bella compagnia un bel panino con la salamella, e ti fa, cosa ci metto dentro? Peperoni, cipolle, salse, ma sì, tutto, full optional. Professor Vaira, una salamella ogni tanto, che dice? Ma sì, grande Gioele, assolutamente. L'importante è non soffrire di stomaco, però, ecco, perché sicuramente per chi soffre di stomaco questo non va bene. Volevo solo aggiungere, come giustamente dicevi tu, Nicoletta, che l'elicobatter in positivo e negativo non è il solo responsabile. Ovviamente lo stress e l'alimentazione è fondamentale, certo, per il nostro stomaco. Quindi le salamelle se le possono ovviamente permettere chi non ha di questi problemi. Erika da Lodi e Irma da Milano. Erika, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda al professor Vaira, perché ascoltando la vostra trasmissione mi si sono rizzate le antenne. Mia figlia è 17enne, che è attentissima a quello che mangia, quindi non mangia fritti, non mangia grassi, mangia molta frutta, verdura, cibi integrali, eccetera. Da 20 giorni a questa parte ha dei fortissimi mal di stomaco associati a mal di testa altrettanto forti. Naturalmente hanno imputato, il medico di base ha imputato questa patologia a questi virus gastrointestinali che stanno imperversando, specialmente nell'Lodigiano. Da 20 giorni sono troppi e di conseguenza mia figlia prende chiaramente tachipirina per far andare via il mal di testa, che però ritorna puntualmente. Quindi, associato a questi dolori, insomma, ci sono questi 20 giorni che alla nostra Erika non tornano. Professor Vaira, ha ragione Erika, ha ragione, bisogna indagare. E come dicevo prima Erika, basta fare questo banale, se mi passa il termine, test sul respiro, non fosse altro per escluderlo. Erika, nel momento in cui fa il test sul respiro e dovesse essere positivo, abbiamo scoperto perché sua figlia ha mal di stomaco e perché c'è il mal di testa. Posso aggiungere una cosa che purtroppo interessa la mamma, cioè lei Erika, a me se non concesso sua figlia dovesse essere positiva, mi dispiace per lei, ma è lei che gli ha trasmesso questa infezione, quindi a me se non concesso sua figlia fosse positiva, anche lei deve fare il test. Se invece fosse negativa, a questo punto forse è il caso che sua figlia faccia tranquillamente una ecografia dell'addome superiore, quindi va a vedere la colecisti, va a vedere il pancreas, va a vedere il fegato, va a vedere la milza, va a vedere i reni. Perché sono le mamme che passano l'elicobacter? Ebbene sì, e solo ce lo passano quando siamo piccini, da 1 a 3 anni. quante volte le mamme con la punta della lingua hanno assaggiato la pappa o il biberon o il ciuccio, ma ringraziando il cielo, se no dovremmo averlo tutti. Su 100 mamme 40 lo trasmettono e 60 no, se no veramente dovremmo averlo tutto, mentre non si trasmette con i baci, con gli affetti, con i rapporti sessuali, quindi poche storie. Nessun tipo di giustificazione. Irma, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno. Io dal 2011 che avevo dei problemi con lo stomaco, ho fatto il test perché mi venivano anche delle cose sulla pelle, avevo dei problemi anche con la pelle, allora l'allergologo mi ha fatto fare il test dell'Helicobacter, il test del respiro. È venuto positivo e dopodiché ho fatto le cure ho fatto già per 3 volte la cura, è sempre positivo. Il mio medico di base mi dice che si può convivere benissimo, però invece io sto male. Ecco, grazie Irma per questa domanda. Professor Vaira, no, scopriamo che abbiamo il test. Sì, non è vero, c'è che una ci cura. Può convivere. Non è vero che ci può convivere, mi dispiace, non è vero. Non a caso è stato vinto un premio Nobel. Questo è un batterio dannoso, questo è un batterio che ci fa dei danni senza fine. La verità è che a volte è difficile sconfiggerlo, come nel caso della nostra ascoltatrice. In questo caso l'unica possibilità è fare l'antibiogramma. Cioè cos'è? Per esempio uno ha una cistite, porta il liquido biologico che l'urina in un laboratorio e ti vanno a identificare non solo il tipo di batteri ma quale antibiotico è sensibile. La stessa cosa si può fare sullo stomaco, quindi nel caso della nostra ascoltatrice non deve assolutamente fare altre terapie ma deve fare una gastroscopia con una ricerca dell'antibiogramma per costruire una cura su misura per la nostra ascoltatrice. Quindi non dobbiamo pensare che di convivere con questo batterio. Bisogna assolutamente radicarlo. I rischi che si pagano perché sono molto alti, vero professore? Esattamente come il fumo. Dobbiamo convivere con il fumo. Certo, conviviamoci, ma non c'è ombra di dubbio che nel momento in cui noi conviviamo con il fumo, conviviamo anche con un rischio reale di sviluppare un cancro del polmone. Mi arrivano dei messaggi al 349-238-6666 sui segnali, sui problemi che l'Helicobacter può portare al di fuori dello stomaco. Lei ha citato il mal di testa, ma ha delle anche implicazioni nei confronti della tiroide, ad esempio? Assolutamente sì. L'Helicobacter è ghiotto. Tutti i pazienti che soffrono di tiroide prendono questa famosa pillola che è l'Eutirox. Sì. L'Helicobacter è ghiotto di questa sostanza e intanto per cambiare onore e merito, questo è vanto della nostra grande Made in Italy, non Bologna, ma Roma, uno studio megagalattico, il primo studio al mondo, che ha dimostrato che in pratica chi ha l'Helicobacter consuma più Eutirox. Cosa voglio dire? Che nel momento in cui noi tiriamo via l'Helicobacter nei pazienti che sono stati costretti o che sono costretti a prendere questo Eutirox, si dimezza la quantità, quindi si prende meno farmaco e come al solito meno farmaco ci prendiamo meglio e più il nostro organismo è felice. Quindi professore, alle persone che devono prendere l'Eutirox sarebbe bene fare un test del respiro. Assolutamente, perché per sì. Avere il dosaggio corretto. Assolutamente sì. Giusto? Implica moltissimo, quindi ovviamente nel momento in cui è negativo il problema è risolto. Nel momento in cui dovesse essere positivo, tirando via questo batterio, in pratica letteralmente si dimezza la quantità di Eutirox che questi soggetti, come quelli con il diabete, con quelli con la pressione, sono costretti a prendere per il resto della loro vita. Può anche essere responsabile di infertilità? Sì, glielo dicevo solo prima. Femminile, glielo sì. Dicevo sì, assolutamente sì, ma anche maschile. Non sono studi, come diciamo noi, forti, con peso specifico. Come dire, è esattamente come il mal di testa è associato all'Helicobacter. Su 100 mal di testa, nel momento in cui tiriamo via l'Helicobacter, 20 persone stanno bene e 80 purtroppo se lo tengono. Però intanto abbiamo risolto il problema a 20 persone. È identico e preciso per l'infertilità. Su 100 persone, intanto in 10-15 persone l'abbiamo risolto, per l'amor di Dio. Sì. Negli altri 80-85 il problema va ricercato in altre maniere. Essere e benessere. Ma bruciare, cari amici, a volte sono i rimorsi per le azioni compiute o ancora i rimpianti per le occasioni perdute. Aveva ragione Edith Piaf quando cantava Je ne regrette rien. Rimpianti e confronti possono deprimere il sistema immunitario e far ammalare di più. Lo sostengono i ricercatori della Concordia University in Canada, guidati da Isabel Bauer, che hanno constatato come le persone ripiegate sulle occasioni perdute o gli errori fatti nel passato hanno, ad esempio, più raffreddori di altri. Il disagio emotivo dei rimpianti può innescare una disregolazione biologica del sistema ormonale e immunitario, che rende le persone più vulnerabili a sviluppare problemi di salute, come un raffreddore o altre malattie a lungo termine, dice Carsten Roche, che ha collaborato allo studio. Lo studio, pubblicato sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin, è stato condotto su 104 adulti di età diverse che dichiaravano il motivo del loro disagio, che andava dalla mancanza di tempo per stare in famiglia all'aver sposato la persona sbagliata. L'obiettivo è quello di suggerire tecniche psicologiche, coping, per affrontare il disagio. La soluzione degli psicologi è un po' a ribasso, ma sembra funzionare. Chi si confronta con chi sta peggio si ammala di meno. E vediamo come la commenta il nostro psicologo, il dottor Francesco Aquila, psicologo, psicoterapeuta, esperto del nostro Daily Lab e autore di Riconoscere le emozioni. Buongiorno, dottore. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come ci aiuta oggi? Intanto non dobbiamo farci prendere dal rimorso e dal rimpianto per il fatto di provare rimorso e rimpianto. Perché al primo posto dobbiamo riconoscerlo se c'è questo sentimento e poi al primo posto fare un'operazione di rassegnazione vitale, concentrandoci di più sul presente anziché focalizzarci eternamente sul passato, col risultato che non solo abbiamo avuto il danno nel passato ma anche le beffe. Certo, insomma quel che è stato è stato. Quel che è stato con una piccola modificazione, cioè se c'è soluzione perché ti preoccupi? Se non c'è soluzione, perché ti preoccupi, secondo un vecchio adagio? Cioè, se c'è una soluzione o qualcosa che possiamo fare, bene, anziché lamentarci, mettiamoci e facciamola. Se non c'è soluzione, ci rassegniamo in maniera vitale e proviamo a concentrarci sul presente e sull'immediato futuro, riconoscendo le nostre emozioni come guida al comportamento. Mi piace questa, vedevo il professor Vaira che annuiva. Professore. Sono assolutamente d'accordo, è giustissimo così. E quindi anche il nostro stomaco si alleggerisce. Dottor Aquilar, quindi questo è il primo passo, possiamo poi procedere? Come no, al primo posto, se poi c'è un problema particolare di stomaco, una delle emozioni che dobbiamo guardare con maggiore cura è il disgusto, che non è un'emozione facile da riconoscere. Detto in altre parole, dobbiamo riconoscere se qualcosa o qualcuno che vediamo, che frequentiamo, ci suscita disgusto, o per dirla in maniera più pesante, ci fa schifo. È un'emozione che di per sé può spingerci semplicemente ad aumentare la distanza, se fosse possibile, da questa persona, da questa entità, tra virgolette, nociva. Quindi, riconoscere le emozioni fondamentalmente e identificare le cose che ci fanno sentire più felici o che ci danno maggiore significato, e poi provare a raccontare quello che noi proviamo ad una persona di cui ci fidiamo, perché questo ci aiuterà a capire meglio qual è il nostro stato d'animo e le decisioni in termini di cambiamento del nostro tempo e degli spazi in cui viviamo la vita che possiamo prendere immediatamente, perché gran parte della problematica diventa poi, si parlava prima nella ricerca di strategie di coping, cioè di come fare a gestire determinati stati d'animo. Molto spesso possiamo gestire meglio gli stati d'animo negativi se progettiamo di organizzare il nostro tempo in maniera diversa, ad esempio prendendoci mezz'ora al giorno per noi. Certo, magari per ascoltare Essere Benessere, un'oretta, che dici? Certamente, per ascoltare questo, Essere Benessere e poi mezz'ora per mettere in atto quello che abbiamo imparato ogni giorno su Essere Benessere. Quindi riassumendo, io andrei sulla rassegnazione vitale e quindi sulla vecchia idea di se c'è soluzione mettila in atto e non preoccuparti, se non c'è soluzione rassegnati in maniera vitale. Riconosciamo le emozioni con l'attenzione a domandarci semplicemente se siamo felici, tristi, disgustati, arrabbiati o impauriti e poi decidiamo di modificare il nostro comportamento per aumentare le situazioni nelle quali le emozioni positive sono più numerose o per allontanarci dalle situazioni che ci fanno provare più emozioni negative. A questo punto riorganizziamo il tempo e dovremo provare sollievo sia mentale sia al nostro stomaco. E se non ha funzionato si ricomincia dal punto 1. Certo, perché vuol dire che non ci siamo rassegnati bene, oppure che non abbiamo riconosciuto le emozioni che veramente ci fanno star bene, perché è un esercizio che richiede un po' di tempo. Una volta che noi poi abbiamo imparato ad andare a riconoscere le prime emozioni fondamentali, poi possiamo diventare più bravi a riconoscere anche le emozioni più complesse. Quindi si inizia dal semplice e poi ci si raffina. Dottor Aquilar, professor Vaira, bisognerebbe portare lo psicologo anche in reparto. Mannaggia. Per tutti, vero? Mannaggia. Per tutti quegli organi che sono molto sensibili anche a livello del stress, emozioni. Come le dicevo, ho fatto 4 anni in Inghilterra, a Londra, quindi purtroppo 20 anni fa, e 20 anni fa noi avevamo già lo psicologo a Londra in reparto, cioè è condizio sine qua non, non c'è un po' di dubbio che a fianco al medico con la M maiuscola ci deve stare lo psicologo, cioè bisogna curare corpo e la mente, è assolutamente importante. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi e buona giornata, arrivederci. Abbiamo Giancarlo da Torino, devo dare la parola a lui, viene da Torino, la mia città, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione, io sono in macchina e vi sento sempre. Bravo. Adesso mi sono sintonizzato e volevo fare una domanda al vostro professore, che sì, non mi ricordo il nome perché si ho chiama, acceso la radio. Si è acceso adesso la radio, professor Dino Vaira. Ascolti, io volevo fare questa domanda. Io 2 anni fa, per un problema di reflusso gastroesofageo, mi avevano ritrovato l'helicobacter tramite una gastroscopia. E dopodiché ho fatto tutta la cura e me l'hanno debellato. E ho fatto poi l'esame delle feci e non c'era più l'helicobacter. Siccome adesso a distanza di 2 anni ho dei disturbi di stomaco diversi dal reflusso, cioè non digerisco, un po' più basso, volevo sapere, l'helicobacter può ripresentarsi o una volta... Guardi che bella domanda mi fa il mio amico Giancarlo di Torino. Bellissima, professore. Bellissima domanda. Per dire 2 cose fondamentali. Infatti volevo chiudere dando delle buone notizie. Cioè il vecchio, il grandissimo Napoleone Bonaparte soffriva di ulcera, perciò aveva la manina qui. Quindi assolutamente lui è morto per un'ulcera duodenale che purtroppo si era cancerizzata. Quindi questa è evidence based medicine. Quindi chissà se ci fosse stata la cura, chissà se avesse poi perso a Waterloo. Sul serio, sto parlando sul serio. Quindi cosa voglio dire di positivo per i nostri ascoltatori e in particolare per Giancarlo? A, che nel momento in cui si tira via sul serio l'helicobacter si sta veramente meravigliosamente bene per il resto della vita. B, che ci protegge appunto da questa benedetta terribile possibilità di eventi neoplastici, quindi io tendo sempre a non spaventare le persone, però questa è la verità. E l'ultima cosa, non torna. Quindi in realtà quello che consigliavo a Giancarlo è: il test sulle feci va benissimo, ma fare anche un test sul respiro, e nel momento in cui realmente il test sul respiro dovesse essere negativo, volevo tranquillizzare Giancarlo che il problema, almeno per quanto riguarda l'helicobacter, non torna. Quindi se ci dovessero essere ancora dei sintomi, perché per l'amor di Dio non è che l'helicobacter è la panacea, bisogna cercare per esempio sulle abitudini di vita, il famoso stress e le abitudini alimentari, quindi non caffè, non cioccolata, non arance, non limone, non pepe, non peperoncino e non sparkling, cioè non il vino bianco, il frizzantino, il famoso pignoletto emiliano romagnolo. E il chewingum, professor Vaira? Non fa bene, a chi soffre di gastrite, ancora una volta, per l'amor di Dio, chi non soffre può fare quello che gli pare, ma chi soffre di gastrite sicuramente non fa bene, perché stimola l'ipersecrezione acida, quindi ci fa produrre più acido di quello di cui in realtà ne abbiamo bisogno. Professore, quindi ci lasciamo con questo messaggio rassicurante, un test che può veramente cambiare un po' la nostra vita, anche perché individuato questo batterio, un batterio da Nobel, c'è la cura e quindi il rischio viene azzerato. Professor Vaira, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. È venuto proprio qui in trasmissione a trovarci, quindi la ringrazio molto. Ringrazio naturalmente gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono intervenute e che ci hanno seguito. Come sempre vi dico che potete scaricarci. Fatelo, a domani. Essere e benessere.